Ettore Frangipane lo conoscete, è un giornalista di chiara fama che ha lavorato presso la RAI e soprattutto dal suo contributo ancora oggi sapiente attraverso le pagine dell'Alto Adige e ci fa riscoprire continuamente degli aspetti della vita quotidiana del nostro territorio, aspetti che ha indagato con piacere perché sì. Percepisce la passione che lo spinge a indagare nel passato recente della nostra terra attraverso la consultazione di altri documenti, di giornali, di libri e anche di varie testimonianze. Ci restituisce uno spaccato della nostra storia recente che spesso e volentieri invoglia anche le persone ad andare avanti, a conoscere meglio, ed è proprio uno stimolo anche per gli stessi ragazzi. Ne abbiamo avuto una riprova in questi giorni e anche questa sera, che viene preso come esempio per le ricerche e per avviare anche dei progetti. La biblioteca fa tesoro di questi lavori, ci fa sempre piacere averlo con noi per poter presentare i suoi libri e soprattutto avere delle occasioni di incontro con l'autore. I suoi libri sono accompagnati anche da molte immagini iconografiche, c'è un apparato iconografico ricco, articolato, che sono anche, diciamo, l'elemento che fa presa che ci può maggiormente legare a questi ricordi. Il titolo appunto è Bolzano scomparsa. Vi annuncio anche che poi alla fine del mese ci sarà l'appuntamento con Fame a Bolzano, che è proprio l'ultimo libro appena uscito. Abbiamo qui una bibliografia, insomma, dei libri che abbiamo qua in biblioteca, è solo una parte, e vi invito, ecco, a tornare a sentire e a conoscere altri libri, altre presentazioni e i nostri servizi. Siamo sempre qui. Il mercoledì e il venerdì organizziamo degli appuntamenti anche per imparare ad usare il tablet, navigare in internet, leggere i giornali che mettiamo a disposizione del pubblico gratuitamente in 52 lingue e scaricare gli ebook che sono la nostra nuova frontiera. Quindi basta telefonare a prenotarsi, perché c'è troppa gente e dobbiamo un po' organizzarci le giornate. Grazie ancora per tutto e buona serata, arrivederci. Grazie. Io devo subito chiamare aiuto, SOS, perché l'immagine non è quella voluta. Non la volevo, eccola qua, è tornata. Le mie superiori capacità tecniche si scontrano con la necessità quotidiana di queste apparecchiature moderne. Vi ringrazio di essere così numerosi, mi spiace vedere qualche amico in piedi. È la mia vendetta, perché giorni fa sono venuto qua, c'era un'altra interessantissima presentazione, sono rimasto in piedi, quindi Hannes, trovati una sedia, non so cosa dire. Bene, siamo qua con il numero 5 di Bolzano scomparsa. Qui seguirà il numero 6, come diceva mio padre, a Dio piacendo, inshallah. A Dio piacendo anche il numero 7. A questo punto mi do dell'eterno e chiudo il discorso. Dunque, siamo al numero 5, che è come i libri precedenti, la precedente serie, 1, 2, 3, 4, non sono altro che delle raccolte di organiche, di articoli che ho scritto nel caso specifico per il giornale Alto Adige. Ogni domenica c'è un mio articolo e li raccolgo organicamente, li espongo attraverso la stampa, si commentano anche con le fotografie che via via vado raccogliendo, e di questo Bolzano scomparsa numero 5 io mi sto nascondendo lo schermo, no? E di questo Bolzano scomparsa numero 5, per dire, sono 270 pagine circa, poi ci saranno un centinaio e forse più di fotografie. Ve ne propongo una serie, naturalmente limitata, perché sennò la cosa diventerebbe troppo lunga. Anzi, mi sono prefisso alle ore 19, un minuto, di concludere questa chiacchierata per non costringervi a stare, per benevolenza e per gentilezza, tutti seduti ad ascoltarmi. Bene. È il numero 5 e qua vedete un balilla, anzi un figlio della lupa. Questo giovane figlio della lupa sono io, perché io sono stato figlio della lupa, poi sono stato tamburino, era già una specializzazione, poi sono stato balilla, Dopodiché niente più, perché c'è stato l'8 settembre, anzi prima il 25 luglio a 43, poi l'8 settembre, e tutte queste cose sono andate in soffitta. Ecco Ettore Frangipane in versione 1939, e questa è una prima immagine che sottopongo alla vostra attenzione, che è, vediamo se la riconosciate, la quale funicolare? No, no. Virgolo, bravo. Ecco, facciamo come le classi, no? Poi distribuirò anche dei premi, dei voti e cose del genere. È il Virgolo, siamo tra gli anni, e siamo nella prima decade del secolo scorso, 1910, quando l'amministrazione asburgica allora contornò Bolzano di numerosi impianti di risalita. Una volta non c'erano le strade che c'erano adesso, belle asfaltate, e non c'erano i mezzi che ci sono adesso. Chi aveva allora l'automobile? Chi aveva allora la motocicletta, per dire, o il motorino? Non esistevano. E allora, per venire incontro alla gente, Bolzano voleva essere anche, e lo fu, una città turistica. L'amministrazione, all'epoca Peratoner, appoggiata dal Land, dallo Stato, dal governo, eccetera, eccetera, costruì tutta una serie di impianti di risalita. Per l'appunto, il primo, e questo lo voglio sottolineare, fu la funivia del Colle. La funivia del Colle è stata la prima a livello mondiale, pensate, per il trasporto delle persone. E le prime, siamo attorno al 1908, una cosa del genere. Adesso non voglio precisare 906-907, perché io stesso non me lo posso ricordare. Posso dirvi, tanto per dire, che non dico niente perché non ho nessuna punta al riguardo. Comunque, tanto per dire, le immagini della funivia del Colle che ho riportato, della prima funivia del Colle che ho riportato in uno dei primi volumi, sono veramente deliziose, perché c'è questa vecchia carriola che va su trasportata a una velocità lentissima rispetto al giorno d'oggi, si metteva 15 minuti per salire. E questi cavi si appoggiavano a dei tralicci di legno. Era una cosa anche abbastanza avventurosa, oserei dire. E poi ci fu, dopo quella del Colle, ci fu quella del Virgolo, quella del Guncina, quella, la tranvia del Renon, la cremaliera era la tranvia del Renon, perché partiva da Piazza Walter, arrivava alla stazione a valle della cremaliera, che spingeva su fino all'Assunta, e poi là la tranvia riprendeva il percorso che è stato riattivato. Questa è stata una bellissima idea della provincia. Con questa tranvia si va fino a Collalbo. Vediamo di andare avanti e di trovare anzitutto le freccette giuste. Sì, questa qua è la freccetta giusta. Vi faccio vedere il Tiroler. Qui siamo nel 1911. Perché il Tiroler? Perché è uno dei giornali che io ho citato, che ho sfogliato per assumere tutte le notizie che poi ho trascritto nei miei libri. Sono prevalentemente quattro giornali di lingua tedesca che si stampavano durante durante la prima guerra mondiale. Pensate che Bolzano, che aveva, non so, diciamo 12-14 mila abitanti, poco più, disponeva di quattro giornali in lingua tedesca, logicamente in bei caratteri gotici che mi sono abituato a leggere, che erano Bozner Nachrichten, Bozner Zeitung, poi Tiroler Volksblatt e Der Tiroler, che è un giornale che sottolineo, del quale sottolineo il fatto che è il nonno del Dolomiten, perché il Tiroler a un certo punto non poteva più usare questa testata, Der Tiroler, perché tutto quello che era tirolese col fascismo è stato cancellato, non si doveva usare il termine Tirolti, non so, la società sportiva ciclistica Tirolia di Gries dovete cambiare il proprio nome in Bauzanum, la casa editrice Tirolia divenne Atesia, e il giornale Der Tiroler dovette cambiare nome prima in Der Landsmann e poi in Dolomiten, per l'appunto. Andiamo avanti. Ah no, devo premere qua. Dunque qua. Qui siamo in, alla ricerca della Bozzano romana. Se voi la Bozzano romana, la vecchia Pons Drusi, ha lasciato tracce che sono state scoperte abbastanza di recente. Se voi andate nella chiesa dei Cappuccini, sotto la chiesa dei Cappuccini, sotto il convento dei Cappuccini, la cosa non è ammessa, ma bisogna andare in gruppo, vi fanno vedere le vecchie mura della vecchia città romana del IV-V secolo d.C., quando l'Isarco scorreva proprio quasi a ridosso del convento dei Cappuccini. Questo che vedete qua è la torre, il maschio centrale di questa torre del vecchio castello Wendelstein, che si trovava lì poco a sud del Duomo, direi più a est che a sud del Duomo, più a ovest che a sud del Duomo, scusatemi, devo continuamente girare, che ha delle basi dichiaratamente romane, sono state riconosciute come tale. Andiamo avanti ancora di un'altra immagine. Ecco questa è la Bolzano del fine 1800, quando, come vedete, si andava a Trento, diciamo in Italia, in carrozza, e ci si andava lungo la strada attuale. C'era un ponte a monte, che era il ponte Loreto, che era un ponte in legno, è chiamato ponte Loreto con due T, perché così stranamente gli austro-ungarici si sono vantati moltissimo della vittoria di Custozza con due Z, perché loro, cioè, i loro giornali scrivevano Custozza, chissà perché, anziché Custozza, no? E la il ponte Loreto era allora la Loreto Bridge con due T, perché si chiamava così, perché qui in prossimità del ponte c'era una chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto, che fu spianata dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale, purtroppo è rimasto il nome. Qua è un tiro a quattro, come voi vedete, le strade sono quelle di allora. Questa era la Bozzano di allora, ripeto ancora, seconda metà dell'Ottocento. Andiamo ancora avanti. E qua vediamo un momento molto importante per Bolzano, 1861, l'amministrazione è del dottor Streiter, Anton Streiter, Bürgermeister von Bozen, quello che ha lasciato il suo nome via Streiter. Sapete dove c'era il cinema Capitol, che adesso si chiama, mi pare, diversamente, no? Quello è via Streiter. Il sindaco Streiter era un laico, perché rifletteva la tendenza e l'ideologia dei bolzanini, che erano dei commercianti, gente pratica, gente che pensava alla lira, al soldo, anzi ai kreuzer allora, gli heller, e non si faceva prendere tanto da ideologie, soprattutto da fatti religiosi, erano molto molto opachi nei confronti di religione, della religione, i bolzanini. E questo è singolare, perché Bolzano allora era, diciamo così, racchiusa tra due comuni, quello di Dodiciville e quello di Gries, che erano invece comuni contadini e pertanto tradizionali e molto religiosi. Nel 1861 a Bolzano cosa avvenne? Avvenne l'illuminazione a gas, che fu una cosa epocale per l'epoca. Prima si andava a quei lampioni ad olio, passava tutte le sere un signore che accendeva questi lampioni, non è qua, è sul libro comunque, no? Che accendeva questi lampioni e poi a un certo punto l'amministrazione comunale di Streiter contattò questa ditta tedesca di Augusta, Augsburg, e installarono qui a Bolzano l'illuminazione a gas con un un'impresa produttrice, un'azienda produttrice, l'azienda del gas, che ebbe il suo, che fu costruita, poi i più anziani tra voi se lo ricorderanno, dove oggi termina via Alto Adige. Là c'era l'azienda del gas con un lungo camino, no? E fecero una rete del gas per illuminare, per portare il gas nelle strade, ma anche in qualche fabbrica, eccezionalmente anche in qualche casa, e fecero in Piazza Walter, ecco qua, siamo in Piazza Walter, un grande corteo nell'anniversario della morte di Friedrich Schiller, il poeta, perché Schiller era visto come un illuminato, un illuminista, e il momento dell'arrivo del gas era visto come un progresso dell'umanità. L'umanità faceva un balzo in avanti. Ecco che la luna piange perché non ha più sufficiente luce per illuminare la città, che una volta restava totalmente al buio, questo va sottolineato. Ecco che si porta in giro il lampione che sottolinea il tempo, il rinnovarsi dei tempi. Questa è la stazione ferroviaria. 1861, la stazione ferroviaria fu costruita nel 1859 in occasione della seconda guerra d'indipendenza, e fu poi rifatta, ricostruita nel 1929 sotto il fascismo dall'architetto Angelo Mazzoni, ed è quella che vedete tuttora. Questo è un altro passo avanti dell'umanità. Qui siamo, vedete questo? Questo è il cammino del gas, tra parentesi, quello che facevo accenno io prima. Ma voi vedete? Ah sì, sono contento perché mi pare... Di sbiecco. Qui c'è il campanile. Qui siamo in Piazza del Mercato. Del mercato del bestiame, Viehmarktplatz, che serviva allora come ricettacolo, come sede del mercato del bestiame, ma anche del Luna Park, degli intrattenimenti e di tutte queste cose. Molti di voi ricorderanno nell'immediato dopoguerra, seconda guerra mondiale, che là venivano le giostre, no? Questo che cos'è? Questo è il cinematografo, che fu un altro balzo in avanti dell'umanità. I primi film furono proiettati a Bolzano ed erano degli esperimenti praticamente all'Hotel Grifone sul finire dell'Ottocento. Qua siamo nel Novecento e i film giravano di città in città, erano dei baracconi praticamente, come la ruota, come il tiro a segno, come tutte queste cose qua, e venivano fatti vedere delle ispezioni brevi, e spesso si indulgeva al comico, oppure, e questa è una cosa molto interessante, si vedevano i primi cinegiornali. Non so, per esempio, era l'epoca nei primi del Novecento della guerra russo-giapponese, quindi si vedevano immagini della guerra russo-giapponese. C'è stato il terremoto di Messina 1908 e quindi si vedeva il terremoto di Messina. Poi venne fuori una polemica perché si scoprì che le immagini che si vedevano non erano il terremoto di Messina, ma erano state ricostruite. Capitava anche allora. Questo è, vedete, Viehmarktplatz, ci siamo in Piazza del Mercato, arriva il Royal Bio, sempre queste compagnie di giro, diciamo così. Qui si vedono immagini dell'eruzione del Vesuvio nel 1906, Erdbeben in Calabria, il terremoto in Calabria, Grossfeuer in San Francisco, l'incendio di San Francisco. Questo era il telegiornale, eh? Era il telegiornale di allora, immagini prima non se ne vedevano, e altre cose. E qui siamo al Weltbiograph, che è stata la prima sala cinematografica fissa in Bolzano. Siamo al 21 dicembre del 1907 e iniziò le proiezioni il Weltbiograph, che prese posto in via nell'odierna via della Mostra, dove ha chiuso di recente la Banca Commerciale Italiana. In quel locale, in quel vasto locale, prese posto il Weltbiograph, che fu poi trasferito al posto del Teatro Kaiserkrone. Il teatro fu costruito nel parco della stazione, e al posto del Kaiserkrone poi venne appunto il Weltbiograph, che assunse un nome diverso, Zentralkino, è il cinema centrale, ve lo ricordo, è il cinema centrale. Ho visto le prime tette, perché mi ricordo un film che mi ha molto emozionato, e poco dopo ci ho portato mia madre per vedere, che la vedesse anche lei, che era un film francese. Per un attimo si vedeva Leslie Carroll, ricordo ancora il nome, che duellava, fingeva di essere nella finzione cinematografica di essere un uomo, l'avversario era un fendente, le si aprì la camicetta e per una frazione di secondo si videro due seni, un'emozione infinita. Mi sono tornato con la mamma, però ecco, e il 21 dicembre apre il Weltbiograph, il giorno dopo, 22 dicembre, apre sotto i portici al numero 30 il cinema Eden, che prese posto nei locali in cui si riuniva il Consiglio Comunale di Bolzano. Quella era la prima sede del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale fu trasferito dove si trova adesso, in Piazza del Municipio, che allora si chiamava Piazza Trinità, Drive Alte Kreuzkirche, perché là c'era in precedenza una chiesetta dedicata alla Santa Trinità, e in questa sala incominciò a proiettare il film, il cinema Eden, che poi si trasferì, come sapete, in via Leonardo da Vinci, e purtroppo ha dovuto chiudere di recente perché non reggeva la concorrenza. Qui siamo, torniamo al discorso delle strade, molto interessante. Questa è stata la strada della Valdega, che è stata costruita, aperta nel novembre del 1860. È stato un periodo quello molto interessante per la viabilità cittadina, come ho detto in precedenza. Nella seconda metà dell'Ottocento già si erano costruite delle cose avveniristiche, cioè si era collegato Sarentino con Bolzano, la Val Gardena col Fondovalle, la Valdega col Fondovalle. Perché? Perché all'inizio queste strade, pensate alla Val Sarentina per esempio, erano fatte di strettoie lungo le quali non si riusciva a tracciare una strada, quindi la gente per scendere da Sarentina doveva salire sul Renon e scendere dal Renon, per dire, no? La Valdega, scendendo da Nova Ponente, si doveva arrivare a Ponte Nova, salire a San Valentino in Campo e quindi Cornero, e scendere su Cardano, e quindi si incominciarono ad aprire queste strade. Fu un'impresa del governo austro-ungarico, logicamente. L'ingegnere si chiamava Schweighofer e aprì tutte le strade che vi ho detto io. Erano strade, perlomeno la Valdega, a pedaggio. È notato una cosa interessante, che si pagava per persona, si pagava per persona senza diversità di stato e di genere. Si sottolineava il fatto che un prete pagava come un civile, per dire. Tutti dovevano pagare, non solo, ma i carichi venivano controllati a secondo del tipo di carico. E se il carico era legname, ogni pezzo di legno veniva misurato, tagliato. Questo ci metteva, insomma. I tempi erano lunghi, logicamente, come potete immaginare. Ancora la Valdega, ecco, Questa era la Valdega. Io percorrevo la Valdega durante la guerra, anni 43, 44, 45, perché ero su il Nuovo Ponente. Vi assicuro che non era molto meglio, non era molto meglio. Era in terra battuta, strettissima, e si arrivava su col post auto fino a Deutschnof, naturalmente, no? E sembrava quasi un'avventura. Adesso si va in macchina dappertutto. Ecco ancora un passaggio della Valdega. Tra l'altro sono bellissime porre che non ci riescono più a vedere perché si va in galleria. Sarebbe auspicabile, e spero che lo facciano per Europa, che il percorso sia reso turisticamente transitabile. Pensate che c'è una forra che nessuno di voi ha visto, io mi ci sono fermato una volta per caso, che è veramente un baratro con una cascata bellissima da vedere. In epoca asburgica c'era una scaletta di legno che scendeva fin là, cioè la Valdega era intesa anche come fatto turistico. E qui siamo ancora sulla Valdega, mi sono fissato un po', come vedete. Vedete Castel Cornedo? Questo è il primo tratto, la discesa della Valdega. Vi ricordate di quel pullman che è precipitato, 19 morti negli anni 50, mi pare ancora, 1950, cose del genere. È una discesa che andava molto ripida. Voluta, questo è Cornedo, naturalmente, ve l'ho voluta proporre queste immagini per questa donna che sale la valle. Con quel grossissimo, con una gerla piena di mercanzie. Queste erano una volta le friulane che giravano di valle in valle, di maso in maso, cariche come bestie di tutte quelle piccole cose che servivano ai contadini dei vari masi: i cucchiai, pentole, padelle, stoffa, ago, filo, eccetera, eccetera, eccetera. E camminavano, e ne ho incontrate io ancora negli anni della Seconda Guerra Mondiale, giravano con delle ciabatte di feltro, se ve le ricordate, non avevano le scarpe. Guardate sulla fronte ha una pezza bianca che serviva a far da contrappeso alla gerla. Pensate a questa povera donna che fatica faceva, e si tiravano sulla gonna per poter camminare più agevolmente, per non inciampare nella stoffa. Dicevo prima, mi hanno intervistato la una volta, ci c'era il Gute Alte Zeit, il buon tempo antico. Si vive meglio oggi. Ancora la Valdega, e qua siamo al Kaiserkrone. Il Kaiserkrone è un palazzo di... c'è scritto qua sotto, Hotel Kaiserkrone, che ospitò Papa Pio VI e il Kaiser Giuseppe II e il Kaiser Francesco I. Prima pertanto di Francesco Giuseppe, che è venuto dopo, perché anche Francesco Giuseppe è stato ospite di questo albergo, che era della famiglia Peck, che è stato costruito su una costruzione precedente appartenente ad una famiglia di banchieri italiani, e che ospitò questo Kaiserkrone. Aveva sul retro una grande sala che era il teatro, perché il primo teatro di Bolzano fu il Kaiserkrone, un teatro nel quale i nobili bolzanini erano obbligati, moralmente obbligati, ad avere a possedere una loggia. C'erano le 9-8 beatitudini dei bolzanini, si diceva allora, adesso me le ricordo tutte, però avere un negozio in via Portici, avere una villa sul Renon, avere una loggia, eccetera, erano le cose che contraddistinguevano i bolzanini benestanti. Questo teatro fu abbandonato nel 1908, dopo, perché non garantiva più sufficiente sicurezza. In quell'anno c'era stato un incendio a Chicago in un teatro, erano morte 800 persone, ci si rese conto che quello di Bolzano era a rischio, e si cominciò a pensare ad un teatro nuovo, che fu in effetti costruito. È il teatro costruito da Max Littmann, che era un architetto di Monaco di Baviera, e che fu inaugurata dal parco della stazione nel posto più bello e più disgraziato contemporaneamente, nel 1918, quando stava in un periodo difficilissimo, quando stava per concludersi la prima guerra mondiale. Dico bello perché c'era un parco, no? Lì hanno fatto questo teatro, e il posto disgraziato perché vicino alla stazione le bombe l'hanno spianato. Ecco qua la fotografia di prima. Qui ci hanno aggiunto il noto figlio della lupa. I colori dei tram allora erano bianco e rosso, anche a Bolzano i tram erano bianco e rosso, cioè rispecchiavano i colori del Tirolo. Poi furono introdotti il verde chiaro, verde scuro, che è tipico dei tram e una volta anche dei taxi italiani. Parliamo di collegamenti. Il trenino di Predazzo, questa qua è una scritta d'epoca. Qui siamo a Predazzo Sud. Durante la prima guerra mondiale furono costruiti nei dintorni di Bolzano, e lì sono tutte cose delle quali io racconto la storia, no? Furono costruite delle ferrovie che servivano per rifornire il fronte che si trovava in Val di Fiemme, in Val di Fasso, sulla Marmolada, anche sul versante di Cortina d'Ampezzo, eccetera. E il bello è che i giornali all'epoca, che io ho sfogliato, non parlavano di questi lavori in corso, perché queste erano opere militari, di interesse militare. E da ora saliva questa ferrovia che arrivava fino a Predazzo. La Val Gardena costruì la sua ferrovia che da Chiusa saliva fino a Plan, e poi si fece anche la ferrovia di Carbonin, come si chiama, da Dobbiaco Calalzo, che alimentava sul lato austro-ungarico il fronte della Marmolada. E pensate che l'unica notizia della costruzione di queste ferrovie che ho trovato sui giornali dell'epoca venne dalla Val Gardena, quando ci sono dei lavori in corso per la costruzione di una ferrovia, non dicevano quale fosse, nei pressi di una località della Val Gardena, e durante questi lavori si è trovato uno scheletro frutto di chissà quale delitto precedente, eccetera eccetera. Ecco, fu l'unico spiraglio questo, e si dice che la ferrovia della Val Gardena fu effettivamente così, fu costruita dai russi, prevalentemente dai russi. I primi prigionieri che arrivarono a Bolzano d'intorno in Alto Adige erano i serbi, perché la guerra incominciò con la Serbia, poi i russi e poi gli italiani. Il problema rappresentato da questi prigionieri, mi viene un po' da ridere, è che era brava gente con la quale non si poteva fraternizzare, con la quale fraternizzavano volentieri le giovinette d'epoca, per esempio a Bronzolo, no? C'erano le cave di Bronzolo, là ci lavoravano i prigionieri, allora il giornale scriveva queste donne che vanno a portare da mangiare a questi prigionieri di guerra, ma cosa pensa? Che i nostri prigionieri siano trattati ugualmente bene nei campi di prigionia stranieri, nemici, e queste donne si innamoravano alle volte anche di questi giovanotti. Ci furono molti, nacquero molti sottirolesi dai capelli neri, dagli occhi neri, insomma, no? E qualche italiano di qua è passato, e i giornali riportavano e scrivevano queste donnacce, disse Huren in tedesco, uso la parola tedesca, vanno perseguite, non si può andare avanti così, eccetera eccetera. Qualche comune come quello di Bolzano in talune occasioni giunse al punto di scrivere nella bacheca del comune i nomi delle giovani donne che si intrattenevano con i prigionieri, i quali prigionieri peraltro dovevano sostituire i mariti, i fratelli, gli zii, eccetera eccetera, che lavoravano nei campi e che avevano dovuto lasciare i campi per andare al fronte, no? Quindi di questi prigionieri, bene o male, c'era necessità. Qui siamo a Predazzo, questa è quella che vi dicevo prima, la stazione di Bolzano. costruita nel 1000, lo ricordo ancora, 859, seconda guerra d'indipendenza, in concomitanza con la costruzione della ferrovia, del collegamento ferroviario tra Bolzano e Verona, seconda guerra. La terza guerra, 1866, affrettò la costruzione del tratto superiore, il collegamento da Bolzano a Innsbruck, e questo vi sottolinea la circostanza, cioè il fatto che le ferrovie avevano soprattutto una volta una fortissima importanza militare. Notate che la stazione era nei vigneti e che la strada di collegamento con Piazza Walter, la Verbindungsstrasse, per molto tempo restò in queste condizioni, con polemiche sul giornale, perché il comune di Bolzano diceva questa è competenza del comune di Doriciville, perché il comune di Doriciville era titolare di questo terreno, e il comune di Bolzano diceva non me ne porta niente, insomma. Però quello di Doriciville diceva noi soldi non ne abbiamo, quelli di Bolzano ne hanno di più, e poi tutti quanti insieme a dire ma potrebbero pensarci le ferrovie, e poi lettere al direttore, è arrivato il treno delle 22, e era buio, e io sono dovuto camminare da una buca all'altra perché non c'era, e ci si inciampava ed è un problema. Poi si arriva a Bolzano, ci cerco un albergo, sono tutti chiusi, ma che città è questa? Ecco qua il trenino, vedete che c'è un binario unico? Il primo collegamento con Trento era un binario unico. Questo è il vecchio cimitero che si trovava, viene dal verbo trovere, che non esiste, dice trovava, no? Mi pare di sì. Per fortuna che non c'è mia moglie insegnante di italiano, se non mi avrebbe redarguito. Ecco, e il treno entrava qui sotto questo porticato, e questa è la stazione. Notate un'altra cosa, il ponte Loretto con le due T, in legno. Il ponte Loretto a un certo punto bruciò e Bolzano fu pressoché totalmente esclusa dai collegamenti, perché non c'era nessun ponte sull'Isarco, non c'era niente, bisognava arrivare lungo il ponte Talvera, che era di legno a sua volta, fino a Gries, e poi fare il giro di Caldaro, fino a che non fu costruito il ponte attuale. Qui siamo all'interno della stazione, vedete la gente che passeggia, ma questo ve lo dico subito, se sono arrivate bene è un fotomontaggio, è un falso storico, comunque la gente camminava. Non c'era il divieto di attraversare i binari. Leggete la scritta Bozengries, perché era quello di Bolzano, era la stazione di Bolzano Gries, perché dal punto di vista turistico era il più importante Gries di Bolzano. Ed è perciò, tra l'altro, che fu costruita il tram Bolzano Gries. Arrivavano lì i viaggiatori, prendevano il tram e così potevano prolungare il loro percorso fino al centro turistico di Gries. Questo è un altro momento, siamo nuovamente alla stazione di Bolzano qua. Un momento topico, un momento importante, un momento angosciante per la città di Bolzano. Siamo ai primissimi di novembre del 1918, crolla l'esercito austro-ungarico, masse di militari abbandonano la linea del Piave e il fronte in linea generale e si dirigono e fuggono verso nord per tornare a casa. Una fiumana di gente incattivita, stanca, malata, affamata. Ho scritto questo Fame a Bolzano, che si conclude praticamente con che presenterò qua il giorno 24, della cronaca della seconda guerra mondiale a Bolzano, quando la cittadinanza di Bolzano fece la fame anche per la presenza di tanti militari qui accasermati oppure qui ricoverati perché feriti o malati, e a Bolzano si soffrì veramente la fame. questa massa di militari che saliva, saliva senza nessuna assistenza, non c'erano salmerie, non c'era nulla, quindi cosa facevano? Andavano a raccogliere quel che c'era da mangiare dove c'era, quindi rapine, masi dati alle fiamme, ne sono accaduti di tutti i colori, a Bolzano anche, ci furono a Bolzano tipo anche qualche morto, insomma era finita una guerra e questa è un'altra guerra. Siamo nuovamente alla a Bolzano, la stazione, durante, anzi diciamo dopo un bombardamento. Ho detto prima che questa stazione è stata costruita da Angelo Mazzoni, architetto. Qui siamo tornati, anzi no, qui siamo, siamo sempre nell'ambito e nel giro dei collegamenti ferroviari, però questa è l'inaugurazione della ferrovia di Caldaro, che è stata inaugurata sul finire dell'Ottocento. Come vedete vado un po' avanti e un po' indietro, però sono sempre interessanti questi discorsi. Ho voluto mettere insieme il soggetto stazione e la locomotiva con le insegne imperiali. Adesso è stata smantellata questa ferrovia, si è fatta una ciclabile, ci si è resi conto che smantellare è stata una stupidaggine, come è stata una stupidaggine smantellare l'Aura Predazzo, tant'è vero che adesso vorrebbero fare rivivere tutte e due le strade ferrate, e si parla anche di rifare un collegamento con la Val Gardena. Queste belle strutture sono state sacrificate all'ideologia dell'automobile. Avanti ancora, questa è la Caldaro che abbiamo conosciuto noi, perché all'inizio era a vapore, poi è stata trasformata in vetture a trazione elettrica. Questa era la terza rotaia, perché il sistema elettrico della ferrovia di Caldaro non era compatibile con quello delle ferrovie dello Stato, per cui questi vagoni che correvano fino a Ponte Adige lungo il tracciato della ferrovia dello Stato, delle FFSS, dovevano lungo quel tratto usufruire del c'era un braccio che strisciava sotto, partiva da sotto la motrice, strisciava lungo questo binario, questa terza rotaia, e da lì traeva l'energia elettrica. Arrivati poi a Ponte Adige, ecco che si alzava il trolley e si poteva prendere l'energia elettrica da sopra. I ragazzi stupidotti come me avevano scoperto che era un fatto eroico da raccontare, da vivere, da raccontare, quello di camminare in equilibrio lungo l'asse e la trave di legno che copriva la terza rotaia. Il rischio era evidente. Questa è l'Aura Predazzo, come era, il ponte c'è tuttora, ne fanno una ciclabile ma si pensa di rifarla. Vedete che questi vagoni riecheggiano i vagoni che erano allora quelli anche della tranvia del Renon. C'era diciamo una tipologia precisa e anche del Renon per l'appunto, una tipologia precisa che era legno e sopra metallo bianco. E se voi andate adesso sopra Bolzano potete ancora trovare queste carrozze che vi portano fino a Caldaro. Ci sono carrozze moderne, però è molto più romantico fare questo percorso con le carrozze dell'epoca. Qui siamo adesso in Val di Fiemme, si costruisce la ferrovia della Val di Fiemme. Vi ho detto che c'erano i prigionieri, ma anche donne. Molte donne hanno lavorato alla costruzione delle ferrovie. Altre donne, vedete, qui siamo nuovamente in Val di Fiemme. Questo è un altro momento, un momento, dunque vediamo esattamente quando, 1906, qua c'è la prima pietra di un edificio che sorge adesso a Gries e che voi farete un po' di fatica a indovinare quale sia, e io ve lo suggerisco, questo è la prima pietra della, vedete che non è un prete cattolico, della chiesa protestante, che fu costruita per l'appunto nel 1906, ci fu un lungo dibattito prima, perché il comune di Gries, gli abitanti di Gries non volevano concedere la loro terra cattolica all'invasione dei luterani, e allora, come ho detto all'inizio, il comune di Gries e di Bolzano, che era un tantinello laico, e Peratone in particolare, si ricordò, Peratone, che il comune di Bolzano era proprietario di un appezzamento di terreno tra i vigneti di Gries, e vendette alla comunità protestante questo appezzamento di terreno sul quale fu realizzata la chiesa che c'è tuttora. Ho parlato col pastore a suo tempo, che mi ha detto che all'epoca si diceva che tutto attorno alla chiesa non sarebbe più cresciuto nulla, perché il campanile, dove arrivava l'ombra del campanile, che proiettava naturalmente un'ombra maledetta, non sarebbe più cresciuta nessuna pianta, i vigneti sarebbero inariditi. Però quando si è trattato di concorrere agli appalti per la costruzione di questa chiesa, c'è stato un grande afflusso da parte di impresari pur cattolici, che di fronte al Dio denaro non hanno avuto esitazioni. In precedenza i luterani, i protestanti di Gries, che non erano di Gries, che erano dei germanici, gente che veniva dal nord, dal centro nord Europa, per curarsi, a Gries si curava per modo di dire, insomma, perché non si guariva della tubercolosi, il loro punto d'incontro era il Kurhaus, la casa di cura. Si chiamava Kurhaus, non è che curassero, è come c'è anche Merano adesso, no? Il Kurhaus era un locale, una serie di locali nei quali si incontravano i turisti per conversare, roba del genere, i villeggianti, e che si è trasformata nel corso degli anni nell'istituto delle Marcelline, dove ci sono oggi le Marcelline. C'erano all'epoca c'erano questi villeggianti e queste persone ammalate che là si rivolgevano per trascorrere qualche pomeriggio, sentire qualche concerto e roba del genere. Visto che si parlava di tisi, apriamo anche il discorso del cimitero di Bolzano, che era questo. Notate questo particolare: la devota e il giovanotto che passa, no? Con occhio un po' troppo interessato, forse. Tra parentesi, in questi giorni, sfogliando la Bozner Zeitung del 1871, sto continuamente aggiornando il mio sito Bolzano Scomparsi, nel quale racconto storie dal 1850 al 1950, ho letto della diagnostica relativa ai morti durante l'anno precedente, cioè 1870. Al primo posto nella casistica dei decessi la tubercolosi. Al secondo posto il morbillo è in terza posizione. E la cosa che mi ha colpito è stato per l'appunto il morbillo. In terza posizione, in quarta posizione i colpi apoplettici, come li chiamavano all'epoca. E il morbillo vi fa capire una cosa: quanto elevata era all'epoca la mortalità infantile. Non mi ricordo più il secondo posto cosa ci fosse. Insegnanti allievi giudei esclusi dalle scuole. La provincia di Bolzano, giornale bolzanino durante il periodo fascista, organo, come leggete, della Federazione dei Fasci di Combattimento, informa nel settembre del 1938 delle leggi relative alle discriminazioni razziali, un momento molto cupo per l'Italia e anche per l'Alto Adige, dove gli ebrei furono, non erano tanti per loro fortuna, furono perseguitati. Questo è il professor chirurgo Ezio Polacco, non so se ve lo ricordate, che era titolare del primariato di chirurgia all'ospedale di Bolzano, riparò in Svizzera, al suo posto fu insediato un bravo professionista, il professor Chiatellino, che aveva dei meriti politici, tra parentesi, il giornale lo scrisse a chiare lettere. E quando tornò Polacco, che riuscì a sopravvivere, rivolle logicamente il suo primariato, e allora cosa si fece? Ci trovò una soluzione all'italiana, due primariati. Ci furono i casi clamorosi, poi voi sapete, la piccola Olimpia Carpi, la famiglia Carpi, che partì da casa propria, viveva nella Revinci numero 20, dove abitavo anch'io, e scomparì ad Auschwitz. Io mi ricordo il delatore, me lo ricordo ancora, tale Clementi, che aveva un negozietto in via Leonardo da Vinci e che fu poi processato e condannato. Lui si difese dicendo che non era stato lui ad accompagnare la Gestapo là, ma l'avevano ingaggiato perché sapeva l'italiano e quindi poteva fare da interprete. Era la scusa diffusa tra molti sotterolesi che si erano resi complici del nazismo. La signora Merci è là ed è la figlia di Lucillo Merci. Lucillo Merci è stato un capitano dell'esercito italiano, bolzanino lui, di origine trentina, il quale ha collaborato con il console di Salonicco, al consolato di Salonicco, ha collaborato al salvataggio di alcune centinaia di ebrei, perché il console, complice Merci, che faceva, diciamo così, operava sul posto visibilmente, andando anche a raccogliere i deportandi ebrei che partivano per essere tradotti in Polonia e in Germania, e avevano trovato l'espediente che aveva l'avallo, e questo va detto, che aveva l'avallo del Ministero degli Interni italiano, cioè gli ebrei di nazionalità italiana che si trovassero in territorio occupato dai tedeschi erano considerati italiani e quindi non andavano esportati perché non erano ebrei locali. E allora il console, complice Merci, cosa fece? Distribuì un sacco di passaporti italiani a ebrei greci di origine italiana e poi alla fine anche non più di origine italiana, purché fossero ebrei da salvare. È stata una bella cosa. A Coso la comunità Israele ha riconosciuto a Lucillo Merci il titolo di giusto tra le nazioni. Esatto. Grazie. La signora e la figlia di Merci. Andiamo via rapidi adesso perché ci sono molte immagini e ho promesso alle 19:05 libera uscita, suonerà il campanello. Questo qua è un sindaco molto interessante a Bolzano, cioè, ho scoperto io una storia su di lui che è veramente da scoprire. Questo qui è il famoso Anton Steiner, del quale vi ho detto prima che era laico, no? E poi ho scoperto che questo sindaco laico non era solo laico, ma era anche massone e aveva aperto a Bolzano la prima loggia massonica. Pensate un po', questo sul finire del Settecento. c'era stato il giuseppinismo e l'imperatore Giuseppe II, figlio di Maria Teresa, che si era aperto ad una soluzione laico delle realtà nazionali e locali, aveva proceduto alla secolarizzazione dei beni ecclesiastici, eccetera, e Streiter appunto fu un sindaco massone che a un certo punto fu anche ricercato, ma nel frattempo lui fregò tutti perché morì. Questa immagine, tra l'altro, si trova, è stata dipinta in una casa di proprietà, credo, sono molto di stupidaggini, dovrebbe essere di proprietà Toggenburg, posso sbagliarmi, che si trovava sull'Arenon, e dove si rifugiò la loggia massonica di Bolzano, e quando dovette chiudere a Bolzano. C'è tuttora. Era Santa Maria Assunta, no? Santa Maria Assunta, esatto. Colera, in Alto Adige e nel Trentino. Ci sono state quattro grandi epidemie di colera, in Italia in particolare e anche in queste valli. La più pesante è stata nel 1855. Ecco, nel 1855 nel Trentino ci furono 14.350 casi di colera con 6.155 morti, che non è poco. A Bolzano solo 8 decessi. Si fecero delle processioni, ci si rivolse al Sacro Cuore di Gesù, non è una barzelletta, è vero, eh? Al Sacro Cuore di Gesù, che aveva salvato l'Alto Adige dei napoleonici nel 1796, quando arrivava il generale Napoleone Bonaparte, il generale che arrivò fino a Trento, Sacro Cuore compatto, Trellantirol, il Sacro Cuore di Gesù, e allora Napoleone deviò verso la Valsugana, quindi miracolo, quindi ci si tornò a rivolgere al Sacro Cuore di Gesù, ma guarda caso funzionò. Questa è una processione a Bolzano, siamo nella prima parte del 1800, nella prima metà del 1800. Vi ho voluto far vedere questa immagine per sottolineare questa presenza. Questo è il primo e il vecchio ospedale di Bolzano. Prima che nel 1855 si costruisse quello che si trovava in via Sernesi, che dove adesso c'è l'università, e funzionava questo ospedale, che era definito, era l'ospedale di Santo Spirito. In ospedale, peraltro, ci andavano pochissime persone, perché all'epoca non si andava negli ospedali, ma anche nel primo Novecento solo i poveracci andavano a morire nell'ospedale, no? E le altre persone ci facevano venire il medico in casa, oppure morivano, magari morivano anche col medico in casa. Personalmente io posso dire una cosa, non so se entra in questa cornice il discorso che vi dico, che io sono nato in casa, perché una volta si nasceva in casa e i miei tre fratelli sono nati in casa, adesso invece si va tutti all'ospedale, è ben meglio, insomma, no? Però c'era questa forma di timore nei confronti dell'ospedale, che era ritenuto essere meta di poveri disgraziati, incapaci di farsi curare e destinati alla morte. Queste sono le statue di piazza della stazione, del tribunale, che vi propongo perché c'è una storia curiosa qua dietro. Queste statue erano state realizzate da Fozzer per Trento, e quando nel dopoguerra fu inaugurata questa fontana a Trento, i trentini immediatamente protestarono per questi nudi osceni, no? E allora queste naiadi furono smontate e messi in magazzino, che Bolzano disse: allora dateci noi. Allora erano andate a Bolzano, dove la città è molto più tollerante, i nudi osceni non sono definiti, non sono ritenuti osceni, qualcuno protesta per il Mussolini che si trova di fronte, ma ripeto, Bolzano è una città più tollerante. E questa è un'altra oscenità bolzanina, questa è stata, si trova davanti alla stazione, è la trazione elettrica, a fianco c'è dall'altra parte la trazione a vapore, e furono queste statue realizzate da Franz Ehrenhöfer, che era un bravissimo scultore d'epoca asburgica, che si trasferì a Bolzano e che a sua volta fece scrivere sui giornali, perché quando furono incominciati i lavori per il monumento ai Kaiserjäger, dove ora si trova il monumento alla Vittoria, lui pensò una costruzione con delle colonne, con un colonnato dorico, e davanti c'erano dei guerrieri nudi, al che il giornale dei ben pensanti, nel caso specifico il Tirolo, dice: oh là, non è possibile, qua passano delle mamme con i bambini, che senso ha, che senso ha far vedere un soldato nudo, quando per altri soldati non aveva del tutto torto, insomma la guerra la fanno vestiti normalmente, no? Qua siamo al tempo delle scuole in Alto Adige, qui racconto una vicenda sulla quale vado via velocemente perché siamo ormai lunghi, il momento nel quale, vedete il prete, l'insegnamento era tutto affidato ai religiosi una volta, interamente affidato ai religiosi, e ci fu il Kaiser Francesco Giuseppe, che nel 1860 qualche cosa, legiferò in merito, sottrasse l'esclusività, o meglio l'esclusiva dell'insegnamento ai religiosi per darlo ai laici. Ci furono problemi di ogni tipo, sui quali ho anche scritto di recente, ma vogliamo andare avanti con sollevazioni, donne che andavano a scuola dicendo che non volevano che i loro figli crescessero luterani, perché naturalmente i laici che venivano a insegnare secondo loro erano insufflati dai pulpiti, erano dei luterani, eccetera eccetera. Qui siamo a Oltrisarco, il tram che portava a Laives, notate che non è lastricato la strada. Questo è il bersaglio di Oltrisarco, dove c'è piazza del bersaglio Oltrisarco. Questo, vedete qua, Schistand, no? Questo era il bersaglio di Oltrisarco. Adesso tra poco chiudo. Questo momento però che vi potrà piacere, questo è il successore di Francesco Giuseppe. Questo è Carlo I, che venne nel 17, ripeto ancora, a Bolzano con la sua consorte, molto carina, e l'imperatrice Zita, ebbero molti figli, una bella coppia fu questa. Questo è il sindaco di Bolzano, notate il cilindro lucido qua, no? È qua pronto ad accoglierlo. E il giornale che ho sfogliato per raccontare questo episodio sottolineava giorni dopo il vestito sobrio dell'imperatrice. Sobrio perché semplice, e si vede bene, diceva il giornale, che lei non si rivolge ai sarti ebrei di Parigi. Mussolini ha sempre ragione. Piazza Walter, dichiarazioni di guerra. Questa è il Turnverein, la sede del Turnverein, della società ginnastica Turnverein, che si trova a lato, si trovava a lato delle odierne scuole Goethe, che è stata trasformata in epoca fascista, perché la costruzione neogotica era troppo tedesca, e allora bisognava italianizzarla. I fascisti hanno fatto questo cubo, che c'è tuttora adattato. Qua stiamo marciando in piazza Vittorio Emanuele III, non piazza Walter, sia ben chiaro. e Piazza Walter si chiamava prima Maximilianplatz, poi Johannsplatz, poi Walterplatz quando ci hanno fatto il monumento, poi Vittorio Emanuele III, poi dopo la guerra, siccome Walter era stato allontanato, fu chiamata, nessuno ce lo ricorderà tra i presenti, Piazza Madonna. E dopo Piazza Madonna è tornata ad essere Piazza Walter. Ecco. Questi sono Ballilla Moschettieri. Io non ci sono perché non sono mai riuscito a sorgere a tale vette. Beh, una scuola, i bambini con le mani in seconda. Ecco, questo è, io sì, mani in seconda dietro. Un teatrino in una classe di Caldaro. Di Caldaro con i burattini. Io vi voglio far vedere il maestro vestito da fascista, camicia nera e pugnale nella cintura. Le refezioni tra parte, tra l'altro, furono una delle belle invenzioni del fascismo. La politica sociale del fascismo è stata, a mio giudizio, una politica valida. Poi ha fatto scoppiare la guerra, insomma. Ecco. E questo qua è il Balilla dell'Alto Adige, una rivista che si stampava nelle scuole Regina Elena, oggi scuole Dante. E è bello sfogliare queste riviste perché si incontrano nomi noti, il maestro Mengarda, il maestro Kummer, che sono poi i genitori di amici nostri, no? Questi qua è una visita di fascisti, di artisti fascisti a Palazzo Venezia, e questa è questa statua. E il legionario Morente, che è stata premiata ad una biennale di Bolzano, era stata scolpita da uno scultore che si chiamava Mureda, naturalmente Moroder. C'era la famosa restituzione dei cognomi alle origini, no? Mussolini a Bolzano nel 1935, vado via veloce. Ecco cosa è il frutto di tanta grandezza. Questo è l'interno del Duomo di Bolzano dopo le bombe. Questa è Piazza Municipio nel 1948, coperta, come vedete, parcheggiati qua dappertutto, carri, carrozze e carretti, una pavimentazione fatta di ciottoli scomodissimi, ciottoli che adesso sono attorno al Duomo, coprivano le strade di Bolzano. L'unica zona che non era in cui ciottoli erano possibili, sapete qual era? Era via dei portici, perché anziché esserci dei ciottoli c'erano dei cubetti di legno, e sui cubetti di legno carri, carrozze e roba del genere facevano bene rumore. Io vi lascio a questo punto perché abbiamo già fatto un'ora e un quarto di chiacchierata, un'ora e dieci, e mi pare che sia un po' troppo. Ci rivedremo, come ha detto la dottoressa Trevisan, se ne avete voglia, il giorno 24, nei quali io vi presento appunto quel fame a Bolzano del quale vi ho detto. A questo punto vi ringrazio dell'attenzione, di essere qui venuti.